Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Mebius. Ciao Chiara. Ciao Federico, sì, buonasera a tutti e a tutte. Allora, incominciamo. Allora, partiamo raccontando di un libro da portare sotto l'ombrellone. Si chiama Contro Natura ed è stato scritto da due amici. La grande impresa manifatturiera italiana, però stanno arrivando tutte queste nuove tecnologie, bisogna cambiare, stiamo cambiando. E poi vi raccontiamo di una ricerca legata alle neuroscienze su quale sia l'importanza dell'inizio e della fine delle parole e di quando la comprendiamo per la prima volta. Iniziamo. In questo periodo dell'anno ci piace dare qualche idea, qualche libro da portare sotto l'ombrellone. Ecco, qui oggi parliamo di uno che si chiama Contro Natura ed è scritto da due amici, lo possiamo dire, Dario Bressanini e Beatrice Mautino. Intanto sono qui con noi in collegamento, benvenuti a tutte e due. Ciao a buonasera tutti. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Beatrice. Hanno bisogno ciao, di Dario. Presentazioni? Vabbè, brevissime. Allora, Dario Bressanini, chimico, famosissimo blogger sulle scienze, divulgatore, collega, perché è anche un divulgatore scientifico. Ecco, e poi Beatrice invece, che è biotecnologa ed è una nostra grande collega. Il libro è edito da Rizzoli, si chiama appunto Contro Natura. Tratta questo argomento cioè si inserisce in questo grande dibattito tutt'altro che concluso, è una bella querela, una bella diatriba, OGM sì, OGM no. Il testo è anche abbastanza ampio e quindi trovate anche una sintesi di tutte queste tematiche. Però noi vogliamo partire da un fatto sì, un fatto che è successo proprio in questi giorni. Sì, a seguito appunto di una ricerca svolta dall'Università di Roma, adesso faremo magari spiegare a Beatrice, che è lei l'esperta in questo, addirittura Slow Food si è pronunciato attraverso i social e così via, strizzando un po' l'occhio a quelli che sono gli OGM buoni. Ecco, allora io e Federico dicendo, cioè ci siamo detti, ma quindi esistono degli OGM buoni e degli OGM cattivi? Oibò, Federico non lo sapevamo. Beatrice, partiamo un po' da qua, da questo spunto di attualità, per poi raccontare cosa è successo. Intanto, allora, intanto è successo che, come spiegavi bene tu, all'Università di Roma della Sapienza ha messo a punto quella che loro hanno definito una macchinetta proteica in grado di difendere in maniera naturale le piante dall'attacco di alcuni patogeni, quindi di rendere completamente inutile l'utilizzo di pesticidi, per esempio. Quindi le piante che hanno all'interno delle loro cellule questa macchinetta proteica riescono ad attivare una specie di sistema immunitario e a difendersi dall'attacco dei patogeni. Slow Food ha dato l'annuncio di questa scoperta dicendo: finalmente potremmo liberarci dall'uso di pesticidi. Queste piante messe a punto dalla ricerca italiana riescono a difendersi naturalmente dall'attacco di funghi, batteri e quant'altro. Perché ora, naturalmente però, Beatrice? Perché allora, infatti qua entriamo in tutta la discussione: che cosa è naturale, che cosa non lo è. Slow Food dice: queste piante hanno questa macchinetta che è completamente naturale, perché sono proteine vegetali che permettono alla pianta di difendersi senza l'uso di quella che viene considerata come innaturale, cioè la chimica, insomma, quella che i pesticidi, gli insetticidi e quant'altro. Quello che Slow Food non aveva capito all'inizio, ma l'ha capito dopo che gliel'abbiamo fatto notare, è che queste piante di cui si parlava sono in realtà degli OGM, perché i ricercatori dell'Università di Roma hanno fuso insieme dei geni, come si fa normalmente quando si costruisce un OGM, li hanno inseriti dentro al genoma di queste piante. Queste piante quindi sono state in qualche modo potenziate, gli è stato dato una specie di scudo immunitario che permette loro di difendersi dai parassiti. Quindi ma dei veri e propri effetti degli OGM. Appunto. Sì, principio quindi, proprio di base è questo, certo. Assolutamente, per cui adesso appunto Slow Food, quando ha scoperto che si trattava di OGM, è rimasta un po' imbarazzata, nel senso che non sapeva più cosa dire, perché quelle piante gli piacevano, sono piante che possono essere coltivate in biologico, quindi completamente senza l'utilizzo di pesticidi, no? Certo. E però sono OGM, per cui come la mettiamo? Sono OGM buoni, come dicevi tu, ma esistono appunto OGM buoni e OGM cattivi. Quali sono gli OGM cattivi? Tra buono e cattivo? Beh, allora, nella cornice comune di lettura, gli OGM cattivi sono quelli delle multinazionali, sono quelli che sono brevettati, sono quelli che magari sono resistenti ai disurbanti, che vengono venduti con contratti di esclusiva, che obbligano gli agricoltori a ricomprare i semi ogni anno, e quindi sono quelli che in qualche modo rappresentano un modello di agricoltura che non piace, che fa storcere il naso, anche magari legittimamente. E gli OGM vengono visti un po' come l'esempio più caratteristico di questo tipo di agricoltura. In realtà però ci sono tantissime OGM che non sono così, e ci sono tantissime piante che non sono OGM ma che rientrano in quel modello lì, e quindi che sono brevettate, che sono resistenti ai disurbanti, che sono vendute con contratti esclusivi. Per cui nel libro noi analizziamo una serie di esempi che appartenenti a un gruppo, quindi quello degli OGM tra virgolette buoni, che non sono così, e appartenenti invece al gruppo delle piante non OGM ma che sono tra virgolette cattive, e cercando di mettere un po' di dubbio, di fare un po' di ordine anche, ma sì, anche di far venire qualche domanda, qualche dubbio. Certo. Leggo dal vostro libro a pagina 90: pastinache grosse quadragesimale ne tirale molto bene, e cavatene fora quello core, cioè quello duro che hanno nel mezzo, le farai allessare, et cotte che saranno le infarinerai molto bene, et poi le friggerai in l'olio. Ora, per non creare la sensazione che voi abbiate scritto in italiano medievale, Dario, che cos'è questa? È una citazione dal maestro Martino da Como? Maestro Martino da Como, sì, il più importante, diciamo, manoscritto di cucina, il primo manoscritto di cucina importante scritto in lingua volgare, risale appunto alla fine del Medioevo. Perché lo citate? Ma lo citiamo perché raccontiamo la storia delle carote. Noi adesso le carote le conosciamo arancioni, sanno tutti, no, che le carote naturali sono arancioni. In realtà non è sempre stato così. Le carote nascono gialle e viola, nascono in Afghanistan circa 8.000 anni fa. All'epoca romana non erano conosciute e arrivano nel Medioevo in Europa e in Italia, quindi all'epoca di Mastro Martino c'erano già, ed erano quelle viola. Le carote viola non erano utilizzate per fare praticamente nulla, perché sporcavano tutto il brodo, per cui si usavano le pastinache, cioè che sono una specie di carota, ma è un vegetale un po' diverso, adesso non si usa praticamente più da noi, che erano chiamate le carote bianche, per cui quella era una ricetta delle carote che usavano loro diciamo per mangiare. Le carote viola le usavano invece per colorare le gelatine di pollo. Nel momento sì. Adesso le abbiamo un po' riscoperte, perché si trovano adesso in qualche supermercato, delle viola, eh? Sì. Certo, la cosa interessante che noi raccontiamo nel libro è perché, come mai a un certo punto compaiono quelle arancioni che noi adesso consideriamo naturali, diciamo così, sono risultato di una mutazione genetica spontanea che è accaduta, ma come accade per tantissimi altri vegetali, ed è accaduta nei Paesi Bassi, in Olanda, attorno al 600, e noi lo sappiamo questo perché cominciano ad apparire carote e arancioni nei dipinti dei pittori fiamminghi dell'epoca. Nel giro di un secolo la carota arancione, diciamo, spopola, non colora più il brodo e fornisce tra l'altro anche una dose importante di beta-carotene nella dieta degli esseri umani, e ci dimentichiamo la carota viola. Quindi la carota viola adesso che è ritornata nei supermercati, anche perché, come diceva Chiara, la utilizzano nell'industria per colorare gli yogurt, per esempio, perché questo colorante è molto forte, la consideriamo innaturale. Qualcuno pensa che sia un OGM, ecco. Consideriamo invece le carote arancioni naturali. Questo è un esempio di come il concetto di naturale o meno sia un qualche cosa molto di culturale. Sì, c'è proprio un disordine su questo, nel senso che tra ibridazioni, mutazioni, OGM c'è tantissima confusione, e come la carota viola potremmo fare 200 esempi, il vostro libro è ricco. Allora, torniamo da Beatrice, perché in una parte, nel capitolo dedicato alla colza rossa e ai supereroi, fate una simpatica riflessione su come gli OGM, ma anche, diciamo, tutte le scoperte scientifiche, la scienza in generale, sia sempre percepita all'inizio come una cosa misteriosa, proprio quasi legata ai superpoteri. Assolutamente, noi paragoniamo gli OGM ai supereroi della Marvel, gli X-Men, appunto cercando di raccontare un po' la storia di come sono stati comunicati. All'inizio sono stati presentati come se avessero davvero dei superpoteri, quindi in grado di combattere la fame nel mondo, di crescere in assenza d'acqua, insomma sono stati pompati molto da questo punto di vista. Però come tutte le cose che hanno dei superpoteri, come proprio i supereroi, sono visti un po' dalla popolazione, in questo caso dei fumetti, con una sorta di timore, no? Perché è vero che possono avere dei supereroi, ma insomma ci si fida dei supereroi, ci si può fidare completamente di queste piante che non sono normali? E quindi insomma analizziamo un po' la questione cercando di fare esempi anche del passato. Per esempio raccontiamo di come un grano che oggi è considerato un grano gourmet, sono sicura che andando negli spacci di Italy e di Slow Food si trovino molte paste fatte con questo grano, che il senatore Cappelli, questo grano agli inizi, quindi nel secolo scorso, quando è stato prodotto da Nazareno Strampelli, che sì, era un grande agronomo, veniva visto un po' come vengono visti oggi gli OGM, quindi insomma si bruciavano le spighe in piazza, si facevano delle proteste. Perché? Perché era la novità che andava a in qualche modo a mettere in crisi un sistema che c'era, metteva in crisi la tradizione. Ma lui quando è entrato in commercio ha completamente spazzato via quelli che una volta erano i grani antichi di una volta, quindi i rieti, che prima venivano coltivati tantissimo, poi è arrivato lui, produceva di più, rendeva meglio, era più buono, e quindi insomma completamente sostituito i grani precedenti, e veniva visto con la stessa diffidenza, con la stessa preoccupazione con cui si vedono oggi le novità in agricoltura. Infatti noi nel libro diciamo: chissà se la Slow Food dell'epoca avrebbe accettato, come avrebbe guardato con certo favore, no? Questo. Ma gli esempi sono tantissimi: il caffè, il cacao, sono tutti stati, quando sono arrivati da noi, sono tutti stati visti da un lato come portatori di grandi novità, addirittura dalle proprietà curative, quasi miracolose, e dall'altro invece come il demonio, no? Un commentatore mi ha scritto proprio in questi giorni, commentando la notizia degli OGM di Slow Food, dicendo: queste piante aprono la porta al diavolo, no? perché vengono visti come un qualcosa di strano, di non naturale, di manipolato, dell'uomo che gioca a fare Dio. Però l'uomo ha sempre giocato con la natura, l'agricoltura noi non raccontiamo una storia di geni, ma è una guerra costante contro la natura, contro i parassiti, per cercare di produrre il cibo, ma è un'attività molto innaturale quella Si è sempre incrociato tutto, no? I paleontologi ci dicono che le pannocchie di grano turco 20.000 anni fa erano grandi 2 centimetri, e questa è la pannocchia naturale. Dopodiché noi abilmente, incrociando quelle sempre più grosse e quindi facendo OGM sostanzialmente, abbiamo inventato il pannocchione, che oggi ci sembra tanto naturale, ma insomma... Certo, vabbè, poi il libro davvero è pieno di questo. Infatti, chiudendo il cerchio, ricordiamo il titolo, che è appunto Contro Natura, dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste del cibo che portiamo in tavola, edizione Rizzoli. Salutiamo i nostri amici Dario Bressanini e Beatrice Mautino. Grazie ragazzi. Ciao, buon lavoro. Ciao. A Mebius periodicamente ci interessiamo di tecnologie e innovazione. Lo facciamo perché ovviamente è un tema di carattere scientifico e tecnologico, ma lo facciamo anche perché questa è un'area sulla quale dobbiamo riflettere dal punto di vista dell'impresa, dal punto di vista dei problemi di creazione di lavoro e di uscita da questa grande crisi. Oggi lo facciamo con un tema cruciale, che è lo smart manufacturing. Adesso chiariamo esattamente di che si tratta, e lo faccio con Giovanni Miragliotta. Buonasera Miragliotta. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Docente del Politecnico di Milano, ma soprattutto responsabile dell'osservatorio che ha il Politecnico di Milano su questa tematica, che è lo smart manufacturing. Allora, smart intelligenza, manifattura. C'è una grande, grandissima tradizione italiana, storica, nella manifattura, però potevamo aspettarci che questo settore non fosse investito dalle nuove tecnologie? Era assolutamente inevitabile, no? Miragliotta, voi la scorsa settimana avete presentato una ricerca esattamente su questo settore. Allora, cominciamo a vedere, però io le chiedo questo, ci dia degli esempi di che cosa significa confrontare le nuove tecnologie nel settore manifatturiero e rispetto a quelle vecchie, che cosa sta cambiando? Certamente, lo smart manufacturing significa impiegare le tecnologie digitali per far lavorare meglio le risorse delle aziende manifatturiere, risorse che sono i loro impianti, le loro persone, le informazioni tecniche, orchestrazione della propria catena del valore. Facciamo qualche esempio per rendere chiaro. Oggi un'azienda ha necessità di acquisire un'enorme mole di informazioni, di sensorizzare il proprio processo interno, ad esempio un macchinario, per raccogliere questi dati che sono risorse del proprio processo per poi elaborarli e fare meglio le attività di controllo della qualità industriale, pianificazione della produzione, efficienza energetica, migliore gestione delle attività manutentive, percorsi di miglioramento anche nel processo stesso di produzione. Cioè il processo può anche restare lo stesso dal punto di vista delle sue fasi, insomma, però il problema è che in ognuna di queste fasi ormai, anche per probabilmente reggere a dei costi diversi e quindi dai prezzi diversi sul mercato, bisogna introdurre intelligenza che crea dei controlli, insomma, crea dei dati, genera dei dati che prima non erano indispensabili, ma adesso sono cruciali. Insomma. Esattamente, consente di far interrelare, di far cooperare meglio le informazioni, gli asset fisici, la modalità con cui le persone portano valore nel processo, esattamente come le tecnologie digitali hanno fatto nel terziario avanzato e in molti altri ambiti dove tutto questo ha cambiato il modo di essere orchestrato. E questo è quello che succede dentro l'azienda. Sì. Altrettanto sta avvenendo fuori all'azienda, cioè nei processi in cui la manifattura si deve intersecare con coloro che già adesso, con le reti che già adesso fanno fornitura, collaborano al processo di sviluppo prodotto, collaborano alla gestione della vita del prodotto stesso. Per fare un altro esempio, un'altra bella azienda italiana che abbiamo studiato, che ha completamente virtualizzato il proprio job shop, sono termini tecnici, la propria officina, in modo tale che i clienti potessero inviare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, dei preventivi, dei disegni con dei preventivi, con una richiesta di preventivo, la macchina elabora il preventivo sull'officina virtuale, comprende i costi, comprende i tempi, risponde al cliente che in questo modo può, se vuole, confermare l'ordine e vedersi rilasciato l'ordine. È una rivoluzione del tutto paragonabile a quella che si ebbe nella fabbrica, quando improvvisamente dalla forza umana per fare andare telaio, cose di questo genere, oppure i cavalli che giravano o i mulini, arriva il motore a vapore, arriva l'elettricità, cioè è veramente una differenza impressionante. Ecco, però, Miragliotta, siamo in un periodo, per quanto riguarda in particolare il nostro paese, in cui per ogni grande comparto, e nella manifattura noi abbiamo sempre avuto una grande tradizione, ecco, noi dobbiamo interrogarci come siamo messi in Italia rispetto a questo cambiamento e all'esigenza di cambiare. Federico, io dovrò essere franco con lei. La situazione non è positiva, non ci siamo messi bene per una serie di motivazioni, ne elenco tre. In primo luogo le aziende manifatturiere italiane hanno nella maggior parte del comparto tenuto una dimensione strutturalmente troppo piccola per reggere sia culturalmente sia finanziariamente il tipo di sviluppo che adesso la manifattura sta necessita. C'è un secondo problema importante, che è rappresentato dalla forte novità, dalla forte discontinuità. Questo cambiamento è un cambiamento che porta del ripensamento complesso, ed è un tipico scenario in cui ancora una volta il tessuto manifatturiero italiano dimostra delle debolezze rispetto ad esempio allo scenario tedesco, allo scenario americano, che sono alcune manifatture a cui noi dobbiamo, possiamo ispirarci, perché le nostre aziende manifatturiere eccellenti invece sono. Il terzo passaggio, a mio avviso, che in qualche modo ne sintetizza, li riprende tutti, è legato all'assenza, in questo momento molto chiara, direi lampante, di un programma nazionale che coordini indirizzi, chiarisca una strategia di medio termine, aiuti le aziende manifatturiere a capire la rilevanza, qui si parli di questo tema con forza, come accade in Germania ormai da 4 anni, come accade negli Stati Uniti ai più alti livelli dell'esecutivo, insomma faccia capire che questa non è una moda, come diceva giustamente lei, questa è la rivoluzione industriale, la quarta, ormai questo è il contatore, e bisogna farci conti, bisogna farci conti. I limiti delle aziende italiane vanno affrontati non in qualche modo sperando in una nostra ennesima capacità di risorgere dalle ceneri, ma partendo dai problemi di competitività che ci sono, sapendo come queste tecnologie dovranno essere usate per superarli. Ci vuole una visione, perché la sfida è troppo alta. Però facciamo così, in conclusione, Miragliotta, giriamolo in positivo. Ci siamo detti come questa situazione deve essere cambiata, e quindi parlare di queste cose vuol dire dare, insomma, uno sprone al fatto che si prenda il toro per le corna e si riesca a cambiare questo comparto, che tra l'altro ci ha dato grandi cose nei decenni precedenti, ma adesso deve rivedersi. Miragliotta, la ringrazio per questo contributo. Dico anche che, insomma, questo vostro rapporto, che è abbastanza ampio, si può trovare facilmente in rete. Se digitate Smart Manufacturing Politecnico Milano, credo che lo troverete facilmente. Grazie Miragliotta e buon lavoro. Grazie a lei e buon lavoro altrettanto. Allora, partiamo dal verbo. Sì. Andai. Mm? Andato. Sì. Andavo. Mm. Vedi che c'è sempre questo anda. Sì, la radice, diciamo, la parte iniziale, però il finale è fondamentale. Fondamentale per capire il significato. Poi andata o andato, maschio e femmina. Capire il genere, certo. Certo. Si può dire lo stesso anche per l'inizio, cioè, insomma, di una parola. Adesso noi, ovviamente, il parlare ci è talmente tanto congenito che di certe cose non riusciamo a capire come stanno. Ci viene naturale. Ci viene così proprio naturale, e quindi dire che nella nostra comunicazione l'inizio e la fine, addirittura anche delle frasi, è così fondamentale, ci può sembrare una... E la diamo per scontata. Esatto. Allora, con Anna Flo, benvenuta a Mebius, Anna. Buonasera, grazie. Ricercatrice presso la SIS in neuroscienze, lei è argentina ma lavora alla SIS, che è questo centro di ricerca avanzate che abbiamo a Trieste. Allora, avete fatto una ricerca che adesso andiamo a spiegare, però ci dica qualcosa di più su questa differenza che voi chiamate questa importanza degli estremi. Beh sì, infatti, come diciamo voi stavate dicendo, si vede in tutte le lingue che quando ci sono queste modifiche sulle parole, con la morfologia delle parole che usiamo per indicare nei verbi i tempi verbali, o anche per esempio il numero quando diciamo mela o certo, due mele, certo, di solito compaiono all'inizio o alla fine, no? E questa è una regolarità che si vede in tutte le lingue. Mm. E questo è quando andiamo sul linguaggio, perché noi diciamo siamo interessati al linguaggio, ma il fattore che, per esempio, se noi dobbiamo anche ricordare, non so, una sequenza di cose, non so, un numero di telefono, di sicuro, per esempio, ricorderemo come comincia o come finisce, ma magari non ricordiamo cosa c'è in mezzo. Allora, questa roba e questo modo di funzionare della memoria, che magari ricordiamo meglio quello che c'è all'inizio o alla fine, è una cosa che è stata studiata da tantissimo tempo, infatti da tipo inizio secolo XIX e fine secolo XIX che già si studiava, e che può avere una rilevanza nel linguaggio, perché infatti ci sono queste regolarità che compargono all'inizio e alla fine, e anche, per esempio, non so, nelle frasi, anche nella struttura della frase, non so, se io vi dico una frase qualunque, non so, tipo, non so, oggi, non so, ho visto a Mario che portava il cane al mare, non è lo stesso che se io vi dico ho visto al mare che portava il cane a Mario, che magari, certo, non ha molto senso, non ma ha è, significato. Non ha, e se vi dico, non so, ho visto il portavo a Mario che il mare ha cane, ormai non ha nessun senso, no? No? Allora, questa roba di dover ricordare l'ordine in quale compargono le cose è importante, e tra l'altro sappiamo che c'è questo fatto nella memoria, no? Che magari siamo meglio a ricordare quello che c'è negli estremi. Esatto, quindi qui c'è una miscela di cose naturali, genetiche, per come siamo fatti, di abitudine, di cultura, che ormai ci viene assolutamente spontanea, mentre invece c'è un ordine, ci sono delle sequenze. Ma noi lo apprendiamo questo meccanismo, perché noi adulti certamente lo diamo per scontato, per esperienza, per educazione e così via. Ma voi avete fatto uno studio invece sui neonati, perché sembrerebbe che nasce proprio lì, in quei primi giorni. Facciamo, Sì, infatti noi facciamo questi studi con i neonati, che la, diciamo, la cosa carina, bella di farli con i neonati, che è il momento in cui c'è stato proprio molta poca esperienza con l'intorno. Allora riusciamo a capire bene quale cose magari sono presenti, sono innate o sono genetiche o sono in questo senso, certo. E quali altri magari vengono da cose acquisite per tutta l'esposizione che abbiamo al linguaggio. E che, come fate? Come fate? Come si fa a fare un esperimento su dei bambini, bambine di 7 giorni? Cosa avete fatto? Vabbè, in nostro caso quello che noi andiamo in ospedale, lavoriamo in collaborazione con l'ospedale di Udine, Santa Maria della Misericordia, e utilizziamo questa tecnica che si chiama NIRS, Near Infrared Spectroscopy, che è quello che utilizza la luce nell'infrarosso vicino, diciamo, e questo ci permette di sensare il livello di ossigenazione dell'emoglobina, no? E questo ci dà un'idea del consumo, perché quando c'è più attività metabolica c'è un consumo maggiore di ossigeno e si vede un cambio nella concentrazione di ossido e di ossiemoglobina. Allora, aspetti, Anna, voi qui vuol dire che mettete dei sensori, in questo caso proprio sulla testa del neonato, oppure fate... Perché l'attività del cervello, questo lo sappiamo, è regolata da una maggiore o minore presenza, intensità del flusso, no, di emoglobina. Voi lì come fate a misurarlo? Sì, noi abbiamo questi sensori che si appoggiano nella testa dei bimbi, per quello che stiamo registrando è soltanto a livello della corteccia, no? È superficiale, non è che stiamo registrando attività nel cervello in posti più interni, soltanto a livello della corteccia dove noi appoggiamo questi sensori. Sì. E questa tecnica, diciamo, ha dei vantaggi per lavorare con i neonati perché non è invasiva, è silenziosa, allora i bimbi sono lì, che di solito stanno anche dormendo, per noi è quello più comodo perché sono tranquilli, e noi appoggiamo questi sensori e abbiamo un registro, mentre loro sentono, li facciamo sentire delle cose mentre facciamo questo registro, no? Sono i bimbi che sono tra 2 e 4 giorni, perché sono ancora in ospedale, no? Facciamo gli studi mentre sono ancora lì in ospedale. Cioè, no? Voi parlate loro e registrate quello che in qualche modo il loro piccolo cervello fa, e quindi se c'è flusso di emoglobina maggiore o superiore, quindi se in qualche modo è in attività, è giusto? Infatti sì, facciamo esattamente quello. Di solito gli studi che stiamo facendo adesso, di solito per esempio li facciamo sentire qualcosa ripetute volte, per esempio una parola che può essere, non so, per esempio una mia collega aveva fatto gli studi prima sulla memoria, loro sentivano una parola inventata come se dicessi mita, mita, mita, mita, mita, mita tante volte. Ah, una parola senza senso. Sì, proprio per vedere per esempio perché la memoria e dopo... Loro per esempio se sentono una parola nuova dopo quella, invece di mita sentono pelu, uno vede che c'è un'attività più grande, no? Mentre se cambia improvvisamente la parola, cioè viene registrato in qualche modo anche un cambiamento di emoglobina e quindi di attività cerebrale. Sì, esatto, okay. Esattamente quello. E noi abbiamo usato un po' questo per studiare questo fatto di come possono magari essere più importanti le prime e le ultime sillabe nelle parole, no? Ma questo com'è possibile capirlo? Cioè, nel senso che all'interno di una stessa parola, anche una parola breve, non so se gli dite molto molti, mele, mela, cioè lì come fate a capire la differenza? Nel nostro studio in particolare noi li facevo sentire una sequenza di sillabe come se fosse una parola di 6 sillabe, ma a caso, no? Non erano parole vere, per esempio, non so, si me buta lefo, era una parola che utilizzavamo, loro sentivano si me buta lefo, si me buta lefo, si me buta lefo per un po' di volte, e dopodiché invece di si me buta lefo sentivano fo me buta lesi, avevamo cambiato la prima e l'ultima sillaba, no? E per esempio in quel caso vedevamo che c'era una reazione, che c'era proprio che cresceva l'attività cerebrale, mentre che se invece di farli sentire la parola scambiando la prima e l'ultima, li facciamo sentire prima si me buta lefo, ma dopo si me tabu lefo, dove avevamo cambiato quello in mezzo, questo cambio di attività non si vedeva più. Allora loro erano capaci di rendersi conto del cambio quando cambiavamo le sillabe, le prime e l'ultima, ma non quando cambiavamo quelle in mezzo. Adesso è chiaro, proviamo. Allora, praticamente gli date delle parole che in realtà sembrano parole ma non lo sono, e sono all'inizio e alla fine uguali, però dentro potete cambiare. Quando gli fate questo cambiamento, loro del dentro non se ne accorgono, ma invece i cambiamenti all'inizio e alla fine sono quelli che gli dicono: ah, sto ascoltando qualcosa di diverso. Sì, infatti, così questo ci sta proprio facendo vedere che la nostra memoria si ricorda di più di quello, è più rilevante quello che c'è all'inizio e alla fine. Diciamo che non è che quello che è al centro non ha significato, ma l'attività cerebrale è fortemente concentrata all'inizio e alla fine, fin dai primi giorni. Anna Flo, grazie, buon lavoro e buona, buona ricerca. Bene, grazie anche a voi. In chiusura vi raccontiamo che c'è qualcosa di nuovo. Sì, io e Federico ci siamo lanciati in una nuova avventura. Si chiama Food Lab ed è una trasmissione sempre ospitata qui a Radio 24, dedicata al futuro del cibo e al cibo del futuro, insomma le tecnologie legate al mondo dell'agricoltura e dell'alimentazione. Va in onda il sabato alle 15, domenica alle 7:10 per i più mattutini, ma in replica anche alle 14, sempre di domenica. Quindi aspettiamo i vostri commenti. Ci siamo anche lì. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao.